我有我有 è arrivato il pomarola bot è arrivato il pomarola bot che pomaro pomaro pomaro pomaro pomarola è arrivato il pomarola bot è arrivato il pomarola bot stamattina al molo Peverello è arrivato un piccolo battello e patente banchiera americana ma nella tiva sua non c'è nemmeno una banana è arrivato il pomarola bot è arrivato il pomarola bot confermo, vi do la mia parola, nella stiva ci sono pomarola. Provenienti dagli orti di Afragola, al ritmo di calypso, rinfrescatevi la gola. È arrivato il pomarola, è arrivato il pomarola. Che pomaro, pomaro, pomaro, pomaro, pomarola. È arrivato il pomarola bot, sono rossetti col baguette in troppa, che spaghetti pomarola in goppa, mozzarella e un po' il vaso Nicola, è questa la gran pizza di regina pomarola. È arrivato il pomarola bot, è arrivato il pomarola bot, se il calypso è fatto di banane, voi ragazze, sapone napoletane, informate il cantante della fonte, che questa pomarola è degna di Capodimonte. È arrivato il pomarola bot, è arrivato il pomarola bot, è arrivato il pomarola bot, è arrivato il pomarola bot, è arrivato il pomarola.